America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Hillary Clinton, il segretario di Stato americano, ha fatto dichiarazioni subito dopo l'annuncio del segretario generale della NATO Rasmussen e ha confermato che gli Stati Uniti faranno un passo indietro nella gestione militare dell'operazione contro il colonnello Gheddafi. We have agreed, along with our NATO allies, to transition command and control for the no-fly zone over Libya to NATO. La Clinton ha fatto un discorso molto moderato, molto calibrato, ha ricostruito la dinamica che ha portato a questa situazione, ha ricostruito la posizione americana che fin da subito aveva detto che avrebbe partecipato agli attacchi per distruggere le postazioni di artiglieria antiaerea integrata avanzatissime della Libia, ma che poi avrebbe ceduto il controllo della situazione agli alleati. Barack Obama aveva espresso questa posizione già sabato, quando eravamo con lui in Brasile, spiegando che il coinvolgimento americano sarebbe stato alquanto limitato. Ecco, le cose si sono poi mosse in questa direzione. Ci sono da alcune parti toni polemici, ho letto anche sui nostri giornali degli attacchi al presidente americano Barack Obama. Francamente mi sembrano degli attacchi un po' gratuiti, perché l'America e il presidente in particolare hanno enunciato in modo abbastanza preciso quello che avrebbero fatto, e nei tempi prestabiliti le promesse si sono in qualche modo realizzate. Adesso dovremo vedere come si svilupperà la situazione. Sentiamo cosa ha da dire Nick Burns dell'amministrazione Bush, ex ambasciatore alla NATO degli Stati Uniti. NATO's going to have to be as aggressive in its tactical flight operations as the United States military has been, and that's an open question because of course NATO is a coalition. Ecco, Burns sostanzialmente dice di essere d'accordo con la linea dell'amministrazione, condivide la posizione di Hillary Clinton. Dunque Burns è un politico consumato, ha fatto tutta la sua carriera al Dipartimento di Stato, è uno dei più bravi, devo dire, diplomatici americani, un uomo intelligentissimo e quindi anche un moderato in qualche modo, quindi non sfrutta politicamente una situazione, non è al Congresso per necessariamente portare avanti una causa diversa, è un esperto e un tecnico. Fra i tecnici però ci sono anche alcuni che hanno posizioni diverse, e dunque ai microfoni di America 24 per sentire una posizione un po' controcorrente rispetto a quella dominante mi è sembrato giusto di invitare Ed Ludwak, analista politico e militare a Washington e un consulente del Pentagono. Buongiorno Ed. Buongiorno. Allora, abbiamo visto notizie continue. Qui la politica degli Stati Uniti è stata quella di dire: beh, noi nel giro di pochi giorni ci ritiriamo, passeremo il comando agli alleati o comunque una forza multilaterale che può essere quella della NATO. La Francia resisteva e a questo punto tutto è avvenuto abbastanza secondo i tempi. Secondo te perché la Francia resisteva il passaggio alla NATO? Perché la Francia non è soddisfatta con solo la no-fly zone, ma la Francia vuole molto estendere la missione per poter attaccare tutte le forze di Gheddafi e al limite Gheddafi lui stesso. C'è un disaccordo di base fra la posizione del Pentagono e la posizione dei francesi. E secondo te la posizione francese è diciamo giusta e da seguire o è troppo azzardata? Non è giusta, però è una posizione che evidentemente è molto vicina a quella di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato, Samantha Power, Susan Rice, Nazioni Unite e queste tre signore, ma è ben differente da quello del Pentagono, che è contrario a ogni allargamento della missione, perché all'inizio il Pentagono era contrario all'intera cosa. E dal lato militare abbiamo tre comandi in questa operazione, che è pericoloso. È stato il comando marittimo strutturato, NATO, comando di Napoli, ben messo, organizzato, con il comandante NATO che oggi è un ammiraglio italiano, che è una cosa che funziona, ben ordinata. Poi c'è voli contro gli aeroplani di Gheddafi sulla no-fly zone, che è adesso sanzionato dalla NATO, era già sanzionato dalle Nazioni Unite, e questo si può fare. E terzo, ci sono gli attacchi contro le forze terrestri, fatti soprattutto quasi tutti dai britannici e francesi, che non sono coordinati con gli altri. tre comandi. Questa è una ricetta per avere il tragico incidente. Un pronostico, Ed. La NATO prende il comando, Gheddafi è asserragliato a Tripoli, la promessa americana e degli alleati è quella che Gheddafi prima o poi se ne dovrà andare. Secondo te come andrà a finire? C'è il rischio di una spaccatura della Libia? La cosa finisce in una sola possibile maniera, cioè che Gheddafi fugge o viene ucciso, eccetera. Le tribù Senussi e le altre tribù dell'Oriente e le tribù dell'Occidente si sono allineati in maniere differenti e non si sa bene come... Quando finisce in questa maniera l'unità, l'idea che ci sarà un governo unitario e democratico in Libia, mi sembra quasi una fantasia a questo punto. Beh, sembrava una fantasia di avere un governo anche unitario in Iraq e poi alla fine più o meno il sì, governo no, è c'è vero, stato. È vero, ci è voluto miliardi di dollari per farlo, un trilione di dollari, moltissimi anni, e dopo tutto questo, elezioni fabbricate made in USA, alla fine la cosa è andata e poi ci è voluto un anno per fare un minimo governo che comincia a funzionare. È verissimo che si può fare, però il costo di farlo. C'è secondo te un rischio, ora che si passa a questa seconda fase, per gli attacchi o comunque per la sorveglianza da parte degli aerei dei paesi alleati? No, un rischio militare, dico. No, la capacità di difesa libico sta deteriorando ogni minuto che passa. Quindi non è che possono fare tanto male, però c'è un pericolo proprio di collisioni aeree, non so cosa dire. Questo era il tipo di cosa che il Pentagono esattamente temeva, un'operazione avventuristica messa su senza un comando organizzato, senza una strutturazione, senza un obiettivo definito. Ecco, per chiudere, c'è una nota di ottimismo che vedi in questa situazione? Quello che vedo è che perlomeno questa anarchia militare in corso e tutto questo è nello sfondo della tipica incapacità militare del nemico. Cioè, visto il caos, mancanza di un sistema di comando e controllo, se avrebbero capacità operativa i libici avrebbero potuto fare molte cose. Ma fortunatamente non hanno la capacità militare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Vi anticipo che il presidente Giorgio Napolitano è in arrivo a New York, arriverà domani, sarà qui per qualche giorno e dunque la settimana prossima lo seguiremo in dettaglio. Ed eccoci alla canzone del giorno. La regina del soul Aretha Franklin festeggia oggi il suo 69esimo compleanno. Finalmente si è rimessa dai suoi problemi di salute, una donna pesante, questi problemi l'avevano costretta a cancellare alcuni concerti all'inizio dell'anno. Dunque per lei, nel giorno del suo compleanno, sentiamo Respect. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!